Absolute Beginners, la musica emergente su Radio Città Fujiko. Buon pomeriggio e ben ritrovati qui con una nuova puntata di Absolute Beginners. Anche questo mercoledì vi terremo compagnia nei prossimi 20 minuti con la nostra nuova musica emergente che abbiamo scovato un po' per voi in giro. Con me oggi Chiara, ciao Chiara. Ciao Paola, buon pomeriggio a tutti. Bene, direi di iniziare subito scoprendo chi sono gli artisti di questa settimana, quindi passo la palla a Chiara per il sommario. Sì, oggi cominciamo con Pablo Scolaro, chitarrista degli Ananda Mida, che dal Veneto ci parla dell'album un po' difficile da pronunciare per me, Anodnatius, album di debutto tra lo stoner e la psichedelia. Passiamo poi invece ai Fake Jam, che hanno suonato mercoledì scorso a Palazzo Pepoli e sono tra i vincitori del contest lanciato proprio quest'anno da Art Rock Museum. In finale di puntata, come sempre, andremo a riscoprire un album d'esordio dai grandi della musica di oggi. Vi anticipo solo che andremo oltre Manica, poi vi diremo meglio dopo, ma ora spazio alle interviste e partiamo con gli Ananda Mida. E abbiamo appena ascoltato Actavas degli Ananda Mida. Abbiamo al telefono con noi Pablo, uno dei due chitarristi del gruppo. Ciao Pablo. Ciao a tutti, ciao Radio Città Fujiko, ciao Alessandra. Allora, io so che il vostro gruppo nasce da un altro progetto musicale e volevo chiederti se ci racconti un po' come si sono formati gli Ananda Mida. Noi siamo un po' figli degli OJM, un gruppo storico stoner della scena italiana. Il loro batterista, Max, è stato anche il fondatore della Go Down Records e praticamente io e lui ci siamo conosciuti svariati anni fa e poi a un certo punto abbiamo iniziato a collaborare per la Go Down e in maniera quasi istantanea abbiamo iniziato anche a suonare assieme io e lui. E da lì siamo partiti, insomma, questa avventura. Lungo questa strada qua abbiamo raccolto e perso vari elementi. Due che sono rimasti è il bassista Davide Metal e l'altro chitarrista, che è tedesco, Alessandro Tedesco, che già suonava la chitarra con gli OJM. E poi abbiamo altri due cantanti, Filippo dei Pattern Embrot e l'altro è Felix Lalou. E il vostro album di debutto è del 2016, sono 9 tracce di musica stoner e rock psichedelico. Ci parli un po' dell'album e del concept musicale che c'è dietro al vostro progetto? Allora, l'album sì, è del 2016, raccoglie tutte le prime idee che avevamo io e Max. Mi piacevano tutta una serie di cose un po' esoteriche, un po' mistiche, in particolare i lavori di Gurdjieff. E da lì ho preso un po' tutta una serie di mitologie e le ho incastrate sulla nostra musica. Il nome del primo disco, Anodnatius, è, diciamo, il lato positivo di tutte le cose che ci sono al mondo, insomma. Sia sia nel mondo esterno sia in tutti i nostri mondi interni. E questo disco qua sia il primo, e poi ce n'è un altro, il secondo, che è il Cathode Natius, che è sarà tutta la parte un po' negativa, un po' oscura, insomma, che stiamo elaborando in questi tempi, insomma, e credo che uscirà per fine anno. E poi ci sarà un terzo disco, che sarà un po' risolutivo, in cui si metteranno un po' a pareggio le cose positive e le cose negative. Il progetto sarebbe di farne tre, così, insomma, si chiude il cerchio, insomma, una mitologia, insomma, che ci siamo creati un po'. Una progettualità a lungo termine, insomma. Esattamente, esattamente, così sappiamo che faremo almeno tre dischi e che, insomma, questo progetto deve durare per questo tempo qua, insomma, non siamo un gruppo che scomparirà fra poco. E, dando un'occhiata al disco, ho visto delle bellissime grafiche ed ho capito, immaginato che questo rappresenta un aspetto importante del vostro progetto. Cosa c'è dietro? Beh, dietro c'è il grande lavoro di Luca, Aviac Artworks, e Luca, anche lui l'ho messo dentro in questa mitologia di medio orientale, ed ha elaborato, insomma, tutti questi elementi che si fondono, bolliscono, si solidificano e fanno un grande pentolone. E lo schema grafico è uno schema, insomma, di un simbolo. Mano a mano che verranno fuori gli album si andrà a completare e si avrà una visione completa di quello che abbiamo in mente già. Bene Pablo, io ti ringrazio per questa chiacchierata, ti invito a segnalare eventuali date in programma o modi in cui è possibile ascoltare la vostra musica e seguirvi. Abbiamo la nostra pagina Facebook, la pagina Instagram, la pagina Tumblr, c'è, cioè, il sito della Godown. Siamo su tutti i vari player, quelli digitali online. Prossime date, a maggio faremo da spalla per le due date italiane dei Color Rave, il 14 maggio a Cina Venezia e il 15 maggio a Savona. In più stiamo preparando un tour estivo per agosto, in cui andremo da una parte all'altra dell'Italia, di spalla a un altro gruppo famoso, insomma, che adesso non posso dire, però insomma sarà una bella cosa. Bene, grazie ancora. Noi adesso ci andiamo ad ascoltare il secondo pezzo dal titolo Condor. I'm dreaming of E diamo il benvenuto a Mattia Elmi, cantante dei Fake Jam. Benvenuto da Absolute Beginners. Grazie, grazie. In realtà ero qua in casa che non me l'aspettavo. Una sorpresa abbiamo fatto. Sì, sì, meglio. Bene, Mattia, allora parliamo subito di Fake Jam. Siete una band molto numerosa, siete in sette. E il vostro progetto nasce... Sette più uno. Il manager, giusto? Esatto. Sì. Appunto, 7+1. Progetto giovanissimo perché nasce lo scorso ottobre 2017 e la vostra musica è Latin Funk molto, te lo lascio dire a te, spiegaci un po' la vostra musica. Diciamo che la nostra formazione è sicuramente giovane sia a livello di età che a livello di numero di ore passate insieme, proprio perché siamo da ottobre, però il progetto in realtà è una cosa che è stata coltivata da Gianluca che è il chitarrista ed Elia che sono praticamente il batterista, che sono i membri, diciamo, lo toccolo duro, no? Della band. Questo era un loro progetto che c'è da tanti anni ormai, cioè da quando erano proprio piccoli, e anche Gabriele comunque all'inizio faceva sassofonista, quindi è una cosa che loro avevano già lanciato da un po'. Poi io mi sono aggregato, abbiamo un attimo rivoluzionato la cosa, cambiato nome, tutto, e siamo così, e ci siamo gettati direi più che sul, a livello attuale, più che sul Latin Funk, diciamo che potremmo definirlo il nostro genere, un crossover fra il funk, il jazz, all'R&B anche volendo, il pop, tutto un po' mixato, diciamo. E appunto questo vostro essere comunque così particolare vi ha portato mercoledì scorso a suonare ad Art Rock Museum. Spiego un attimo, appunto quest'anno la rassegna, quella che da un po' di anni ormai si tiene a Palazzo Pepoli, e quindi unisce un po' il mondo del museo con la musica italiana indipendente, ha quest'anno lanciato un contest aperto alle band under 30. Tra le tre band vincitrici eravate proprio voi, che vi siete esibiti appunto mercoledì scorso. Sì, tra l'altro totalmente in maniera inaspettata, proprio perché noi avevamo messo il video lì a caso, cioè senza rendersene conto, abbiamo detto vabbè, mettiamo lì, poi abbiamo vinto, è stata una sorpresa anche quella, devo dire. E infatti appunto, com'è stata l'esperienza anche di suonare lì comunque davanti a un pubblico magari anche che appunto non sono vostri fan, perché comunque è il pubblico che magari generalmente segue la rassegna, com'è stata questa esperienza? Comunque è un'esperienza bella, perché è più che altro particolare, diciamo, che per poi per la nostra formazione chiaramente suonare in un luogo del genere con un certo tipo di suono anche è stato un po' impegnativo, però i fonici sono stati bravi, alla fine ci siamo saltati fuori bene, è stata una bella esperienza. Il pubblico, alla fine, la reazione che a me piace di più innescare nel pubblico è la sorpresa, capito? Cioè è bella questa cosa qua, infatti anche questa telefonata che mi stai facendo non mi piace, perché uno dice ma cosa sta succedendo, cioè non se l'aspetta, capito? Magari uno viene a sentirci più volte, una certa dice ok, va bene, sappiamo che adesso fa, ah no, cioè, non è che facciamo sempre le stesse cose, chiaramente stiamo ancora sperimentando, però è bello vedere lo stupore, no? di certa gente che non si aspetta niente proprio di quello. Infatti era bello perché non c'entravamo assolutamente nulla con gli altri due artisti, ma assolutamente nulla. Infatti quando eravamo lì ci siamo guardati e abbiamo detto oh, ragazzi, cosa facciamo, set acustico, cioè eravamo un attimo interdetti, però alla fine l'avete portata a casa, diciamo. Sì, alla fine abbiamo detto vabbè dai, diamo tutto, tanto cioè, ci divertiamo, abbiamo dovuto portare batterie, abbiamo fatto le cose, ci siamo sbattuti, dai, facciamo casino. Voi siete come attività giovanissimi, state già lavorando però a un album? Sì, adesso stiamo cercando chiaramente in maniera indipendente, quindi con i nostri tempi stiamo cercando di registrare, qui siamo in set, è difficile anche organizzarsi eccetera, però stiamo cercando appunto di registrare questo album che dovrebbe uscire a maggio. Poi abbiamo già in progetto altre cose da registrare, però sai, una cosa molto chiaro che se arrivasse uno gli dice guarda, avete il mio studio gratis per sempre, ho annullato tutti i vostri impegni dei prossimi 2 anni, basta, allora vabbè, ne facciamo 2, 3, 4, però purtroppo la vita non ci pesa un po'. Esatto. Mattia, io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con Absolute Beginners. Noi tra poco ci andremo ad ascoltare Painted Eyes, che è il vostro singolo, il video che è uscito appunto in anteprima all'album. E nel ringraziarti io ricordo che questa sera sarete in concerto al Cortile Caffè, giusto? Cortile Caffè in via Nazario Sauro. Esatto, quindi noi invitiamo tutti quanti a venirvi a vedere live, perché sicuramente il tocco in più si gusta. Live ci sono i Fake Jam. Esatto, quindi noi sicuramente ci vedremo, verremo ad ascoltarvi, e ancora grazie. Grazie Mattia, e grazie a te. E questa è Painted Eyes. Like those colors make your face like crown. You can out, you can scream, you can cheat, you can speak. to the brooks of my ears. But there is no one of your worst, let me talk the tears. You can be proud of myself for me cause of your fails. But it doesn't mean anything cause the face I'm going to be raised. But it doesn't mean anything cause what I feel has changed. I wish I could drown me a smile like yours. Just be the future I could forget everything. She was longer ties, that's a long, long, long time. Now I'm bigger than a pencil for me, myself, and me with eyes closed. Doesn't need your brush. It is perfect since all of the gash on the picture. Anybody line could mean modifying body and know someone. Body happiness way will always be the same. I wish I could drown me a smile like yours. Just be the future I can forget everything. But she was longer ties, it's a long, long, long time. Now I'm bigger than a pencil, for me myself out there with eyes closed. Future I could forget everything. My cheap was stronger ties since a long, long, long time. Now I pick up a pencil for make myself feel well without yours. I wish you could drown me a smile like yours. Just need a future I could forget everything. My cheap was stronger ties since a long, long, long time. Now I pick up a pencil for make myself feel well without yours. E questa era Painted Eyes dei Fake Jam. La band bolognese, appunto, vi ricordiamo, come dicevamo prima, che questa sera suonerà al Cortile Caffè. Però vogliamo anche ricordarvi l'appuntamento, uno degli ultimi appuntamenti di Art Rock Museum in orario aperitivo, quindi si riusciranno a seguire entrambi i concerti. C'è Flavio Giurato a Palazzo Pepoli e quindi sicuramente questa sera c'è un grande affare sull'aspetto di concerti a Bologna. Però ora è arrivato il momento degli Ex Absolute Beginners. Prima vi dicevamo che si va oltre Manica, quindi andiamo nella terra per eccellenza della buona musica. E chi abbiamo, Chiara? Diccelo tu. Sì, oggi andiamo nella cool Britannia più glam e sofisticata, come piace a me. E andiamo a scoprire l'omonimo album d'esordio degli Suede, che tra l'altro quest'anno festeggia 25 anni perché è uscito a marzo del 1993. Si tratta di un esordio capolavoro, osannato da tutti gli amanti del genere e non solo, e noi abbiamo scelto di ascoltarci da Suede, So Young. Bellissimo brano che apriva questo fantastico album, sofisticato anche, vogliamo ricordarlo, il fantastico e bellissimo Brett Anderson. E su questa immagine così idilliaca noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 14.30 qui su Radio Città Fujiko. E vi ricordiamo anche la nostra pagina Facebook Absolute Beginners RCF per riascoltare tutte le nostre puntate in podcast.